Adoro l'adrenalina da riot, sentirmi circondata da mani amiche. Amo i corpi che si strusciano, tenersi per mano, correre più veloci, tenersi sotto il braccio, costruire cordoni. Piano, piano, piano! Adoro guardarci negli occhi, sapere tutto di chi si ha di fronte. 3, 2, 1, via! Veder lanciare sui sassi sulle guardie è bello quanto guardare un'eiaculazione. E ti passano un guanto per tirare su quel pezzo di lacrimogeno che ti fa piangere ed è come inviti lui a mettersi il preservativo. Vedere una camionetta bruciare è un orgasmo simultaneo e collettivo. Mi sento persa nella folla, ma sono viva. Le mie sorelle e i miei fratelli mi fanno stare bene. Dopo c'è solo adrenalina e stanchezza. Voglio di toccarsi i prati, abbracciarsi. Niente, niente.